Riflessi d'oltretevere. Una buona domenica da Katia Caramelli. La salma di Padre Pio è stata traslata. Ora le spoglie del santo di Pietrelcina riposano nella chiesa costruita da Renzo Piano a San Giovanni Rotondo. Fra Antonio Belpiede è il portavoce dei frati cappuccini. Padre Pio è stato inumato, secondo tradizione, come persona morta in odore di santità nella chiesa Santa Maria delle Grazie alla sua morte, che il 23 settembre 1968. È stato esumato dopo 40 anni, il 2008, per la ricognizione canonica, cioè per la verifica sui resti mortali e per delle operazioni di pulizia medico-biologica. I più grandi santi, San Francesco, Sant'Antonio di Padova, Santa Chiara, San Giovanni Bosco, sono stati sempre seppelliti in una chiesa dedicata evidentemente a un altro santo al momento della morte. Dopo la proclamazione della santità, esumati dalla terra e innalzati sull'altare, c'è un simbolismo evidente, il santo è elevato e così per Pio nella chiesa nuova a lui dedicata, è in linea con la più classica tradizione della chiesa cattolica. Nella nuova cripta che cosa si può ammirare? Si entra e si rimane con la bocca aperta. Ho visto anche Santo Padre aprire la bocca con un sorriso di stupore, lui che è abituato alla contemplazione raffinata, alle idee filosofiche, alla bellezza. Sono 2500 metri quadri, un'opera d'arte che resterà nella storia dell'arte dell'umanità, come la Cappella Sistina, come Hagia Sofia in Costantinopoli. Qualcuno, un'ultima cosa per chiudere, però ha polemizzato su questo spostamento. Il diritto di opinione e di parola tocca a tutti, poi in famiglia decide il papà e la mamma, nella Chiesa Cattolica decide la Santa Sede. Ti diverti a fare il papa? È una delle tante domande che un gruppo di bambini delle scuole elementari hanno rivolto al papa e che l'editore Ancora ha raccolto in un libro regalato al pontefice per i suoi 83 anni e i 5 anni di pontificato, a curare il volume Zaira Zuffetti. È il libro diviso in tre parti. La prima sono delle domande al Papa sulla vita del Papa, su cosa fa tutto il giorno, eccetera. La seconda sono delle richieste al Papa e la terza sono dei racconti della propria vita. I bambini raccontano cosa fanno al pontefice, come se fosse un amico. Con che stile appunto si avvicinano al Papa i bambini? Guardi, è stata una sorpresa anche per me, perché io pensavo che avessero una specie di rispetto reverenziale, invece no, gli danno quasi tutti subito del tu, e anche quelli che cominciano magari con un solenne sua eminenza poi passano decisamente al tu. Hanno molta confidenza con lui, lo vedono perché lo vedono alla domenica quando benedice, quindi lo conoscono e gli raccontano senza nessuna difficoltà, tra l'altro sempre paragonando la loro vita a quella sua. Gli chiedono, non so, tu hai un mezzo di trasporto tuo? Poi gli dicono, io sì, il monopattino e la bicicletta, oppure com'è la tua casa? La mia è così. Paragonano la loro vita con quella del Papa, anche senza barriere di età. E questo mi ha stupito, proprio assolutamente, non lo considerano vecchio, no? Ce n'è uno che mi ha fatto proprio ridere, perché dice, tu perché pensi che le donne non possono diventare papa? Perché sono stupide. E poi, mia sorella è stupidissima. E come sono questi bambini? Cosa è emerso? Guardi, sono bambini impegnatissimi intanto, cioè al giorno d'oggi i genitori cercano di riempire ogni angolo di tempo nella vita del bambino, per cui moltissimi gli dicono verrei volentieri a Roma ma non ho tempo. Da una parte si vede che sono allevati nella maniera più serena possibile, cioè appunto si cerca di farli divertire, vede infatti anche il titolo, ti diverti a fare il papa, è emblematico perché per loro la vita deve essere divertimento. Ma poi d'altra parte però si vede che questi bambini quotidianamente sono a contatto con delle realtà terribili che vedono alla televisione, quindi sono sbalestrati, ecco, da questa loro vita serena, però con questo incubo che nel mondo, in maniera molto teorica e molto lontana, però ci sono le guerre, c'è la fame. Invece per quanto riguarda la loro vita personale, molti erano figli di separati, molti. Rassicurano il Papa, gli dicono non preoccuparti però per me, perché io sono tranquillo. Ecco, questa visione, perché per tutti la famiglia è un punto di riferimento, proprio per tutti. alcuni gli chiedono di aiutarli a non fare più, a non litigare più con i fratelli, ecco, cose del genere. Dimmi come si fa a diventare papa, cose così. E è stato consegnato il libro ed è stato detto al papa: Sua Eminenza, quando avesse delle preoccupazioni, provi ad aprire questo libro. E lui gli ha risposto: ne ho tante. Ora c'è Don Willy Volontino e ci risentiamo domenica prossima. Più sacro che profano. Ne hanno parlato così tanto e sovente che, in modo così fazioso per alcuni aspetti, che la gente ha cominciato a prenderne le distanze. Sto parlando dei deplorati, anche da parte nostra, casi di pedofilia che improvvisamente sono venuti a galla, magari vecchi di 30-40 anni fa, come se giornali, televisione e radio si fossero dati appuntamento per demolire la Chiesa. La campagna è stata così concorde che a molti è venuto il consistente sospetto che un disegno premeditato stia all'origine di questa campagna di demolizione. La Chiesa, attraverso i suoi rappresentanti più autorevoli, non si è lasciata sorprendere, perché si è resa conto e deplorato la gravità della situazione. Papa Benedetto XVI, un raffinato intellettuale, un pastore mite e forte, ha lanciato fulmini senza mezzi termini sui responsabili di tali crimini, pur lasciando aperta la porta al ravvedimento e alla giustizia civile. Ma detto questo, ci siamo chiesti come mai i mass media, che ingenui non sono, hanno preso di mira quasi solamente la Chiesa Cattolica. Oppure la maggioranza dei mass media fa finta di non sapere che i casi di pedofilia, di abusi sessuali sui minori, sono consumati dentro le mura domestiche, in famiglia, negli ambienti sportivi e scolastici, cioè in quegli ambienti in cui la tutela del minore dovrebbe avere la massima cura. Quando si dice da persone per bene, non certo sprovvedute, che i mass media dovrebbero darsi una regolata circa l'informazione a tutto campo, che se è certamente un diritto è anche un dovere sacrosanto l'intelligente e prudente gestione dell'informazione, perché allora non se ne tiene conto? È solo questione di etica professionale.